le strade nella notte di solito. Ci siete voi ogni notte, sangue botte, le nocche rotte. Quelli siete voi, vandali, siete voi, giovani come noi, giovani, vandali, liberi, ma fragili. Tutte le volte il sangue scorre, sirene accese, fuggite voi, cambiare aria, il sangue coagula, una cella squallida, aspetta voi, vandali, siete voi, giovani, come noi, giovani, vandali, liberi, ma fragili.